Europa 24. L'unica soluzione per la pace in Medio Oriente è quella due stati, uno israeliano e uno palestinese. Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea, Federica Mogherini, nel corso di una conferenza stampa a margine della conferenza a Parigi per il rilancio del processo di pace. Secondo uno studio di Eurostat, i romani sono tra i più scontenti in Europa per la qualità dell'aria in città. Solo un romano su tre si sente soddisfatto della qualità dell'aria che respira. Lo rivela un'indagine condotta da Eurostat in 83 città europee in occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente di domenica. Il dato è uno dei più bassi, al pari di Parigi e Madrid. Al centro della statistica, però, non c'è la reale qualità atmosferica delle metropoli, ma la percezione che di essa hanno i cittadini. Al vertice della classifica ha pari merito Dublino, Vienna ed Helsinki. L'88% degli abitanti di queste città è convinto che l'aria che respira non sia particolarmente inquinata. Tra le grandi capitali vince Berlino, con il 71% di cittadini soddisfatti. Fanalino di coda, Bucarest, dove meno di un quarto dei residenti dà un giudizio positivo. Dati più o meno simili sono emersi anche da un'altra ricerca dedicata alla percezione del rumore metropolitano, che vede ai primi posti Dublino, Helsinki e Lussemburgo, e in coda Madrid, Roma, La Valletta e Bucarest. Alessandra Iannuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato siglato un accordo di partenariato fra la Commissione europea e l'Italia in materia di aiuti di Stato per migliorarne la gestione. La partnership con l'Italia fa seguito a quella stretta dall'esecutivo UE con la Bulgaria ad aprile, mentre avanzano i lavori per chiudere quella con la Romania. La Commissione europea rende note le linee guida sulla sharing economy. Il divieto totale di attività tipiche della sharing economy, come ad esempio Uber o Airbnb, deve essere solo una misura estrema. I paesi europei devono distinguere tra chi affitta la propria casa o mette a disposizione l'auto occasionalmente per arrotondare e chi invece lo fa a tempo pieno e per mestiere. La Commissione europea entra nell'era della sharing economy con le linee guida sull'economia collaborativa rese note ieri per armonizzare le decisioni degli Stati membri sulla regolamentazione delle piattaforme online che offrono servizi dal car sharing ai pasti a domicilio fino all'affitto di casa. Terra vergine su cui ciascun paese europeo ha fatto finora da sé, senza aggiungere ulteriori direttive o reinterpretare quelle esistenti in materia di servizi o e-commerce. Bruxelles chiede ai 28 paesi maggiore uniformità. There were two main elements in existing situation. Invitiamo a rivedere le regolamentazioni alla luce di queste linee guida, ha dichiarato la commissaria al mercato interno Biankowska, e siamo pronti a sostenerli in questo processo. La Biankowska si è spinta oltre lanciando un messaggio chiaro: non si può imporre il divieto totale di queste attività dell'economia collaborativa se la ragione è proteggere i modelli di business esistenti. Vi è una legislazione europea. Se vengono rispettati i criteri fiscali, sociali e di protezione dei consumatori, non si può vietare queste attività, ha concluso. Per il vicepresidente della Commissione Katainen, il ruolo di Bruxelles è incoraggiare un ambiente di regolamentazione che permetta a nuovi modelli di business di svilupparsi, proteggendo i consumatori e assicurando una tassazione e condizioni di occupazione eque. Per questo la Commissione suggerisce ai 28 di stabilire soglie minime sotto cui un'attività economica possa essere considerata attività non professionale tra pari, senza dover rispettare gli stessi requisiti applicabili a un fornitore di servizi che opera su base professionale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.